Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente il vertice dei tre, e quindi Francia, Germania e questa volta anche l'Italia. Vertice da cui è uscita qualche indicazione, ma anche qualche resistenza. Era attesa, si poteva sperare che non vi fosse. Le resistenze sono quelle tedesche sulla Banca Centrale Europea. Sarkozy è più possibilista, ha detto che sulla Banca Centrale Europea si potrebbe trovare un compromesso rispettando le linee rosse di ognuno, quindi caveat di ogni paese, però si potrebbe trovare un compromesso. E poi ha annunciato sempre Sarkozy che il neo presidente del Consiglio Mario Monti ha invitato sia Sarkozy che la Merkel a Roma a breve per proseguire, e ha detto Sarkozy: ci andremo con grande piacere. La Merkel ha invece ribadito che vuole un euro forte e stabile, e che però la Banca Centrale Europea deve essere indipendente. Qui c'è la differenza, lo spazio tra i desiderata e la dura realtà. Da più parti e da settimane si scrive, si dice che se la Banca Centrale Europea non si metterà a garantire in ultima istanza i debiti dei paesi che fanno parte dell'area euro e non potrà stampare moneta, questo attacco continuerà, ma più che un attacco speculativo, è proprio il timore di molti fondi mondiali, a partire dai fondi pensione, nel restare investiti nell'area euro, come si è accorta brutalmente ieri anche la Germania, quando non ha trovato sottoscrittori per più di un terzo del suo debito, o meglio del debito ieri collocato in asta, i 6 miliardi di Bund tedeschi. Lo scetticismo sull'euro, sulla capacità dell'euro di restare, di esistere, e dell'area euro di restare unita, fa sì che non ci sia molta voglia di tenere in portafoglio euro e quindi titoli di Stato dei paesi che compongono l'area. Poi parleremo anche di Mario Monti. Chiaramente l'altra notizia riguarda in realtà i mercati finanziari, che dopo la conferenza stampa con queste tiepidissime aperture avevano girato tutti quanti in negativo. Adesso sono tornati in positivo, più 0,1%. Milano più 0,3%, Parigi, Francoforte resta ancora negativa, meno 0,17%, Londra meno 0,41%. L'America cosa fa? Nulla, è Labor Day ed è chiusa Wall Street. L'euro si è leggermente indebolito in questi ultimi due giorni, da quota 1,35, 1,36, in cui era rimasto per settimane, è sceso a 1,33,24, ma ripeto, è un euro ancora molto forte se pensiamo a cosa sta capitando invece ai debiti dei paesi dell'area euro. A dimostrazione che gli Stati Uniti continuano nella loro politica di tenere il dollaro molto debole, e loro possono farlo perché possono stampare moneta, ossia emettono titoli di Stato che poi vengono comprati dalla Banca Centrale Americana, dalla Federal Reserve, che per comprarli stampa moneta. Quantitative easing spiegato in maniera un po' grossolana. 349-238-6666 per i vostri SMS. E le altre notizie in breve, subito in apertura. Ho detto ringraziamento, chiaramente Thanksgiving oggi, ho detto Labor Day è il Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, quello del tacchino per capirsi, in America che tiene chiusa Wall Street. Chiedo venia, dicevamo dei titoli: Fiat più 4,1%, Mediolanum più 3,60%, Fondiaria Assai più 3,50%, Fiat più 3,30% come Unicredit, il 2,60% lo guadagna Mediaset, il 2,50% lo guadagna l'automatica e il 2% è il rialzo di Saipem. In rialzo anche Finmeccanica, che comunque resta sotto i 3 euro per azione, e adesso parleremo di Finmeccanica, a 2,96 euro, più 1,80%, TOZ più 1,60%, Exor più 1,40%, Diasorin più 1,24%, Intesa San Paolo più 1,20%, Parmalat più 1% come Tenaris. Chi perde? Azimut meno 3,15%, A2A meno 2,80%, e Popolare Emilia Romagna e Popolare di Milano meno 2,60%, Enel Green Power meno 1,70%, Monte dei Paschi meno 1,60%, come Eni l'1,30% lo perde il Banco Popolare, l'1,20% Campari e Snam Rete Gas, l'1,1% è il calo di Enel. Oro e petrolio sono sostanzialmente stabili, l'oro in leggerissimo calo a 1694 dollari l'once, il petrolio a 97 dollari al barile. Ancora, per quello che riguarda invece i rating e gli spread, due termini inglesi che vogliono dire i voti dati dalle agenzie che danno i voti al debito dei paesi, e la differenza invece tra quanto costa ai paesi più a rischio indebitarsi rispetto a quanto non costi la Germania. Allora, oggi l'agenzia di rating Fitch ha portato il voto al debito del Portogallo a spazzatura, junk, da BBB- a BBB+, non si è avuta nessuna reazione sui mercati, e invece resta alta la pressione sulle obbligazioni tedesche, che il rendimento è toccato ha toccato il 2,26%. Ora, paradossalmente, siccome lo spread è la differenza tra quanto rende un Bund tedesco e l'equivalente titolo di Stato degli altri paesi, è chiaro che se rende di più si riduce lo spread. Perché se per esempio la Germania il rendimento è passato da 1,98 a 2,26, sono 28 punti di spread. E quindi paradossalmente si riducono gli spread con tutti gli altri paesi. E uno va a guardare sia gli spread ma anche i rendimenti. I nostri BTP continuano a rendere più del 7%, cioè lo Stato italiano per trovare compratori per il suo debito deve offrire oltre il 7%, che è un livello altissimo, un livello non sostenibile, a maggior ragione se tu cresci poco, pochissimo o quasi niente. E però, insomma, i Bund tedeschi vanno al 2,26%, ai massimi da fine ottobre, poi sono scesi al 2,18%, a dimostrazione che, ripeto per l'ennesima volta, la non voglia di euro colpisce anche la Germania. Il BTP Day del 28 novembre, perché non ne parlate mai? No, come non ne parliamo mai? Deborah Rosciani farà la puntata di Salvadanaio quel giorno, avremo dei servizi anche la mattina, è il giorno in cui non verranno chieste commissioni per comprare i BTP in banca. Ne abbiamo parlato più volte, comunque fate bene a ricordarlo, per carità. Devo deludere due ascoltatori che dicono non parla più dello spread perché adesso c'è Monti. No, guardi, ne parliamo ogni giorno dello spread, purtroppo. Preferirei non parlarne, perché fosse sceso a 300 punti, a 280 punti, non ne parleremo più. E invece qualcuno dice, ma insomma la sua capa, io non ho una capa, io ho un direttore, giusto per precisione, Emma Marcegaglia, la Confindustria è l'azionista di maggioranza del Sole 24 Ore, ci mancherebbe, non parla più. No, ha parlato oggi, anche qui mi dispiace deluderla, è intervenuta nel corso dell'Assemblea degli Artigiani, CNA, Confederazione Nazionale Artigiani, sulla necessità di fare presto e anche sulla possibilità che, insomma, le soluzioni vengono prese a breve. Di questo parleremo alle 17.45, comunque ve la faccio ascoltare in questo passaggio. Il governo Monti, il premier Monti, la scorsa settimana, quando ha presentato il suo programma e ottenuto una fiducia molto forte dalle Camere, ha presentato un programma molto condivisibile che direi in larga parte è in linea con appunto le riforme che noi abbiamo chiesto. Allora credo che adesso diventi assolutamente fondamentale fare queste riforme molto presto. E poi l'intervento anche sulla Germania, adesso vi arriviamo. Ancora due notizie che riguardano il mercato. Dunque, la Banca Centrale Europea sta valutando di poter fornire prestiti fino a 3 anni alle banche europee. Ieri è uscita una notizia abbastanza pesante della EBA, European Banking Association, l'associazione bancaria europea, che ha detto: le banche sono ferme, hanno congelato i prestiti tra di loro e conseguentemente hanno anche congelato spesso i prestiti alle imprese e ai cittadini, o comunque chiedono tassi in Italia che vanno dal 7, 8, 9 fino al 13%, quindi tassi insostenibili. E soprattutto le banche europee avranno bisogno di 700 miliardi di euro l'anno prossimo. Oggi la Banca Centrale ha detto siamo pronti a dare prestito, valutando prestiti per le banche europee fino a 3 anni. Parleremo nel corso del programma anche delle dichiarazioni del neo ministro welfare Elsa Fornero, che ha detto che la riforma delle pensioni c'è già stata, è stata largamente fatta, necessita di tempi più accelerati, quindi probabilmente è solo un anticipo delle finestre. E ancora riferita alla Fiat, che oggi, praticamente oggi, c'è stata l'ultima assemblea a Termini Imerese, ha detto le grandi imprese non abbandonino il paese, e lo dice Elsa Fornero, che non solo è il ministro ma è torinese ed era nel consiglio della fondazione Intesa San Paolo, per cui di Intesa San Paolo, per cui conosce bene anche il mondo Fiat. Termini Imerese, dicevo, ultima assemblea della fabbrica dopo 41 anni di storia. Oggi è l'ultimo giorno di piena produzione, da domani e fino al 31 dicembre i lavoratori saranno messi in cassa integrazione, poi il 31 dicembre cala la saracinesca su Fiat. Insomma, notizia arcinota ma non bella. Due notizie prima di passare al primo tema. Allora, Mario Monti si è autosospeso dalle funzioni del presidente della Bocconi. Questo lo dico perché molti di voi giustamente ci avevano chiesto: ma Monti quando è che lascia gli incarichi che ha la Bocconi in Goldman Sachs e nella trilaterale europea? Allora, si è sospeso per l'intera durata del mandato di presidente del Consiglio da presidente della Bocconi. Ha poi lasciato tutti gli incarichi come consulente di Goldman Sachs e come presidente europeo della trilaterale e nel comitato direttivo del Bilderberg Group. Allora, piaccia o non piaccia, lui si è autosospeso e dimesso, altri no. Ma è giusto chiederlo, perché è giusto che non vi siano conflitti di interesse e che vengano comunque chiariti per chi fa politica. Un'ultima notizia sull'evasione fiscale. Sapete che è un tema che nei nostri GR trattiamo ogni mattina e ci sta molto a cuore. Ah no, aspettate che c'è un flash agenzia, costi della politica. Allora, il Consiglio di Presidenza del Senato, presieduto dal Presidente Renato Schifani, ha oggi deliberato il superamento, a partire dalla prossima legislatura, per i nuovi eletti, dell'attuale sistema degli assegni vitalizi. Quindi stop a nuovi vitalizi. Vedremo, la prossima legislatura comunque. No, l'evasione fiscale. Allora, dopo il caso dell'altro ieri, quello beccato in Porsche Cayenne che si è vantato di non avere mai fatto una dichiarazione dei redditi per 20 anni, e devo dire che il clima è un po' cambiato. Anni fa avrebbe avuto anche nel nord-est un po' di sostegno, sono arrivate invece decine di proteste via mail, via Facebook e quant'altro, milioni di euro di imponibile evasi. Oggi è c'è un'altra notizia che arriva sempre dalla Guardia di Finanza di Venezia. Ha scoperto una coppia sconosciuta al fisco. Pensate, dichiaravano 6 euro assieme. No, non sto scherzando, mi guarda strano il tecnico. Marito e moglie avevano denunciato nel 2010 rispettivamente di aver guadagnato 1 euro e 5 euro. Spero che fosse il marito a essere quello ricco dei due, diciamo così. Scordandosi, ma ogni tanto la memoria fa brutti scherzi, di annotare l'introito di 65 milioni di euro come conseguenza della vendita di un terreno di 180 ettari. Erano distratti. A parte che io vorrei veramente averli opere. Uno che riesce a denunciare nella dichiarazione di aver guadagnato 5 euro è un mito del male, non so come definirlo. È quasi surreale. Comunque si è accorto il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Venezia, e tra l'altro quella coppia era la coppia che aveva fatto la transazione immobiliare di maggior rilievo in tutta la provincia di Venezia, quindi ha avuto anche la faccia tosta nonostante una transazione immobiliare da 65 milioni di euro, ha continuato a dichiarare 1 euro e 5 euro. Tutta l'attività era infatti in Lussemburgo, due società. Ma Lussemburgo cosa aspettiamo a invaderlo? Perché insomma, Lussemburgo basta con sta cosa, no? Abbiamo le Cayman in casa. Sì, veramente bella, bella, perché 180 ettari a ridosso del mare, a Eraclea, in provincia di Venezia, equivalenti a 200 campi di calcio, li avevano venduti nel 2008, quindi i soldi li avevano guadagnati nel 2008, neanche a dire scusatemi, abbiamo appena venduto il terreno. E dietro la società lussemburghese che gestivano un cospicuo patrimonio immobiliare vi era un imprenditore italiano di 68 anni, risultato da sempre evasore totale. Anche lui non aveva mai fatto una dichiarazione dei redditi dal 1997 al 2008. Mentre poi dal 2008 ha preso paura, è tutto vero, e si è messo a fare la dichiarazione dei redditi, denunciando rispettivamente prima 4 euro e poi 5 euro, e poi visto che c'era la crisi, nel 2010 ha denunciato 1 euro la moglie e 5 euro lui. Andiamo bene, proprio bene. Mito del male. Una cosa però la voglio far notare: la Guardia di Finanza di Venezia è sempre quella che si fa notare. Ma è possibile che la Guardia di Finanza, lo dico con massimo rispetto al sud, in Calabria, in Campania, in Sicilia, in Puglia, non scopra mai evasori totali? No, lo chiedo con senza malizia, solo con come domanda. Allora, Emma Marcegaglia su Angela Merkel, ascoltiamola. Dobbiamo far capire a tutti, e soprattutto alla Germania, alla cancelliera Merkel, alla politica europea, che una visione di cecità, di breve periodo, che non fa fare i passi avanti chiari, definitivi alla costruzione europea, non solo penalizza i paesi, diciamo, più in difficoltà, come possiamo essere noi, la Spagna o altri, ma penalizza tutta l'Europa, rischia di far cadere l'Europa. Noi siamo ormai a un punto in cui o andiamo avanti subito con forza, con determinazione nella costruzione europea, o il rischio vero è che noi distruggiamo tutto quello che abbiamo costruito fino ad oggi. Una nota ancora a chi chiede se Monti si sia sospeso o dimesso. Si è dimesso dagli incarichi in Goldman Sachs, nella trilaterale e nel direttivo Bilderberg. Si è sospeso invece, questo è previsto dalla legge, dalle funzioni di preside della Bocconi. Allora, l'Europa e la crisi, vertice a Strasburgo, in cui oltre ai soliti due, Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, è arrivato oggi anche Mario Monti. Tre posizioni molto diverse, soprattutto quella di Sarkozy e Merkel, che sono più solidi in questo momento per parlare, anche se la Francia è un po' scricchiola, e la Germania ieri ha ricevuto un bello schiaffo, in cui si è inserito anche Mario Monti. Tre persone, a noi è venuto in mente una cosa, con tre case diverse, con tre case che hanno solidità diverse. Allora, tre persone con tre case diverse. Siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratellini, mai nessun ci dividerà, tra la la la la. Siamo tre piccoli. Eh sì, chiaramente il porcellino con la casa di mattoni è la Germania, quello con la casa di legno è la Francia, e noi per ora la casa ce l'abbiamo di paglia, su questo non c'è nessun dubbio, eh? In un tiepido mattino se ne vanno i porcellini. Sarkozy, siamo tutti e tre consapevoli della gravità della crisi e siamo determinati a sostenere l'euro. Lavoriamo insieme alla riforma dei trattati. E noi incarniamo, abbiamo le stesse idee di fronte alla gravità di questa situazione. Abbiamo indicato al presidente Monti che la Francia e la Germania nei prossimi giorni faranno delle proposte per modificare i trattati, per migliorare la governance dell'Eurozona, perché ci possa essere un'integrazione nella convergenza economica. E bisogna far sì che bisogna assicurare che queste proposte sono ben accette, vogliamo dirlo all'Italia. E poi abbiamo indicato tutti e tre di comune accordo la nostra fiducia alla banca nei confronti della BCE e nei confronti dei suoi dirigenti. E tutti e tre noi abbiamo indicato che, rispettando l'indipendenza di questa istituzione essenziale, c'è bisogno di astenersi però da domande positive o negative che ci si fa. È una posizione che noi abbiamo elaborato insieme, congiuntamente, e che dobbiamo si adatta alla situazione. Siamo tre piccoli porcellini, siamo tre. In realtà questo è Sarkozy che doveva rispettare anche la forma, perché poi Le Monde sta scrivendo sul sito, il giornalista di Le Monde che sta seguendo Sarkozy da anni, che Sarkozy sarebbe particolarmente irritato oggi dopo il fallimento del summit con Mario Monti e Angela Merkel. Poi dice Sarkozy, sulla Banca Centrale Europea è possibile trovare un compromesso, bisogna cercare punti in comune. Da me e da Angela Merkel massimo sostegno al governo e all'Italia di Mario Monti, e a breve andremo a Roma con Mario Monti e Angela Merkel, a trovare Mario Monti con Angela Merkel per un prosieguo del vertice. Allora, Angela Merkel invece fa arrabbiare Sarkozy, perché? Perché dice la Banca Centrale Europea deve restare indipendente. Vogliamo un euro forte e stabile, ma non basta volere le cose, bisogna anche cercare di farle, aggiungo io. E poi dice, la proposta sui trattati nulla hanno a che fare con la Banca Centrale Europea. Il presidente francese ha detto che la BCE è indipendente e per questo non si possono parlare di cambiamenti dei trattati con la BCE. Noi ci occupiamo per i cambiamenti dei trattati che poi mostreremo nei dettagli, è la questione di un'unione fiscale, e questo è un altro capitolo però ben diverso. E ci sono state delle proposte, ma non abbiamo nulla a che fare in questo senso con la BCE. Allora, chiedono gli ascoltatori, ma chi è il lupo? Il lupo è la speculazione, sono la finanza internazionale che ha deciso di buttare giù casa dopo casa, prima quella di paglia, poi quella di legno e poi quella di mattoni, il sistema, l'architettura dell'euro. Si capisce come vanno costruite le case, o se no non ce n'è per nessuno, anche se la favola va a finire in maniera un po' diversa. O meglio, va a finire che la Germania e il porcellino di mattoni fa entrare gli altri due e dice d'ora in avanti però ci muoviamo in maniera diversa, ma fa un gesto di generosità, non continua a chiamarsi fuori dalla mischia pensando di essere diversa. Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore, inviato a Strasburgo, buonasera. Buonasera a voi. Ti sono piaciuti i porcellini? Senza offesa. Sì, è una metafora efficace di quella che è la situazione. Si potrebbe anche farne un'altra, di un aereo che rischia di schiantarsi al suolo, dove ci sono due piloti, che la Francia, uno tedesco e uno francese, che poi chiamano un terzo pilota che è lì pronto dietro la porta. Questo entra e vede i due piloti che litigano e cerca, insomma, attenzione, non lasciate la mano sulla cloche, fate questo, fate quell'altro, insomma abbiamo sostanzialmente un ruolo da svolgere, ma l'irritazione di cui si parlava di Sarkozy forse è anche per il fatto che oggi ha capito che la posizione del primo ministro italiano Monti e forse più vicina a quella della Merkel, perché se è vero che Monti oggi ha detto noi siamo per un automatismo delle sanzioni, per dei meccanismi di sorveglianza delle discipline di bilancio molto rigidi, ebbene questo serve per poi aprire un negoziato che ci interessa a noi sulla crescita, sulla possibilità di sterilizzare gli effetti della caduta del PIL sui conti pubblici. Allora, no, interessante questo punto, perché tu stai dicendo Mario Monti in sostanza è più vicino a Angela Merkel che a Sarkozy, non perché l'Italia possa avere qualche similitudine in questo momento con la Germania, ma perché dice se io tengo la linea che vanno rispettati gli accordi, vanno rispettate le promesse, vanno rispettati i parametri di bilancio. In cambio, però, chiedo un po' di pazienza e un po' di respiro su quella parte del deficit, diciamo, che è dovuto alla crisi e non una cattiva gestione della cosa pubblica, altrimenti non riesco più a fare un investimento per un ponte, per una ferrovia. È un po' un paramonti, Sì, certo, in un certo senso sì. ma lui ha confermato il pareggio di bilancio nel 2013. Poi sugli Eurobond, altro punto interessante, per la prima volta ha detto sì, sono uno strumento importante, utile, ma soltanto all'interno di un'unione dove ci sia una forte cooperazione anche del settore fiscale, che ci sia un'unione fiscale. Quindi è venuto abbastanza incontro alle tesi della Merkel, mm-hmm, che sono abbastanza e Sarkozy, molto, molto, e Sarkozy c'è rimasto male. Paramonti non, a me piace tantissimo, quindi lo userò ancora. No, Paramonti, perché è furbo questo atteggiamento, non è un'offesa. Dire io do ragione alla Germania, metto in un angolo la Francia, però poi la Germania vado a chiedere, sì, adesso però andiamo a calcolare anche quanto parte del deficit è dovuto alle nostre spese fuori controllo e quanta parte è dovuto al fatto che c'è la crisi peggiore dal 29, c'è la caduta del PIL. Paramonti, allora no, cioè, ho il merito della pubblicità, poi vorrei sentire anche Mario Monti chiaramente e la tua analisi anche su questo e anche sulla, su Angela Merkel. Io ricordo ancora quando a fine agosto, quando è iniziata la tempesta, quando la tempesta proprio ha assunto i contorni di una tempesta, il mitico Helmut Kohl, cioè uno dei padri dell'euro, il padre della riunificazione tedesca, il padre putativo di Angela Merkel, ha detto in un'intervista a un bimestrale tedesco: Angela Merkel ha sempre avuto una terrificante mancanza di coraggio, non sa prendere iniziativa e ci vogliono passione e fermezza. Se uno non ce le ha, allora quello non è il suo posto. Ha solo una visione miope. Lo dice Helmut Kohl, che di Angela Merkel, ripeto, è il padre politico. Meteo, pubblicità e poi torniamo su questo. 349-238-6666 per i vostri sms. Piccoli porcellin, siamo tre fratellin, mai nessun ci dividerà, tra la la la la. Allora, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy e Mario Monti, il vertice di Strasburgo. Abbiamo ascoltato sì gli interventi di Angela Merkel e di Sarkozy. Sarkozy molto irritato perché non ha ottenuto praticamente niente e anzi, come spiegava in collegamento con noi da Strasburgo l'inviato del Sole 24 Ore Gerardo Pelosi, Paramonti, come l'abbiamo battezzato oggi, ma lo prende scherzando, si è spostato verso Angela Merkel dicendo no, noi siamo d'accordo con la rigidità, col rigore, perché poi vorrebbe ottenere un po' più di comprensione su ciò che deriva dalla spesa pubblica italiana fuori controllo o ciò che invece deriva dalla crisi economica mondiale, per cui in un caso è colpa dell'Italia, nell'altro no. Sentiamolo allora Mario Monti, che ha detto: ho molto apprezzato l'invito a venire, o il fatto che sia Sarkozy che Angela Merkel verranno in Italia, e loro hanno molto apprezzato il mio invito. Ringrazio molto il presidente Sarkozy, l'iniziativa sua e del cancelliere Merkel di invitarmi in questa occasione ad uno dei loro dialoghi è stata molto apprezzata da me personalmente, dal mio governo e sono sicuro dall'intero Paese. L'Italia è tradizionalmente stato uno dei fattori motori dell'integrazione europea e intende più che mai esserlo in questa fase che si annuncia molto problematica per tutti dal punto di vista della tenuta dell'Eurozona, ma anche, come è nella storia europea, piena di promesse. L'Europa ha sempre saputo reagire positivamente alle crisi. Allora, Gerardo Pelosi, questo invito è importante, adesso è inutile girarci attorno, è importante da un punto di vista della diplomazia internazionale più che dell'effetto economico-finanziario, cioè il fatto che dopo le tensioni e obiettivamente il deficit di credibilità che si era registrato nelle ultime settimane con del governo Berlusconi, Angela Merkel e Nicolas Sarkozy che vengono a parlare di difendere l'euro a Roma, è un successo, Paramonti o Monti che sia. Assolutamente sì, credo che negli ultimi 10 anni sicuramente no, ma forse anche ritornando anche indietro non si ha memoria di un simile incontro in cui l'Italia sia stata ammessa a entrare nella cabina di regia dell'Europa. È stato molto abile Monti, perché questa poteva essere semplicemente un'occasione per apprezzare gli sforzi di Monti, che comincia questa nuova sfida come Presidente del Consiglio italiano, ma una tantum. Invece lui è stato abile, li ha invitati, loro hanno accettato l'invito, che accoglieranno dopo il Consiglio europeo del 9 dicembre e prima di Natale, quindi in una data collocabile a metà di dicembre, insomma, sostanzialmente. Ecco perché l'abbiamo battezzato prima, Paramonti, perché anche in questo, se tu fai un invito, è difficile che gli altri dicano no, perché creerebbero anche un caso. Una nota, certo, a chi scrive al 349-238-6666, sapete che rispondo anche, e soprattutto a chi... dunque, c'è chi scrive ancora: dopo aver fatto di tutto per far dimettere Berlusconi, lei riesce a guardarsi allo specchio la mattina? Boh, dipende, ma dipende da quello che ho fatto la sera prima, guardi, onestamente, non è per... Cioè, se lei ritiene che Radio 24 o Sole 24 Ore o il gruppo abbia il potere di far dimettere il Presidente del Consiglio Berlusconi, che ha governato per 14 anni, veramente ci sta facendo un complimento come potere mediatico. In realtà, ricordo, lo spread a 570 e la non maggioranza alla Camera 308 invece che 316. Mi sono sembrati modestamente quelli gli elementi, oltre che il crollo di Mediaset in borsa, che ha perso in tre giorni il 20%, più che l'opinione di Radio 24, che onestamente non mi sembra così schierata nei vari programmi a favore di uno e contro l'altro. Ascoltateli tutti i programmi, dalla mattina alla sera. Il programma di Mario Monti, dice che lo ha illustrato a Sarkozy e alla Merkel. Sentiamo. Ho illustrato al Presidente e al Cancelliere il programma in corso di articolazione del governo che ho l'onore di presiedere. Ho insistito sull'interesse che l'Italia in primo luogo ha, al di là dei vincoli che riceve dall'Europa come ogni altro Stato membro, l'interesse che l'Italia in primo luogo ha di perseguire in modo rigoroso gli obiettivi di consolidamento della finanza pubblica, in modo rigoroso, entro termini serrati, confermando l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013, e in modo sostenibile. La sostenibilità, su questo ho avuto una interessante e approfondita discussione con il Presidente e la Cancelliera. La sostenibilità implica anche una crescita economica che dia garanzia di una tenuta nel tempo dei migliori equilibri di bilancio. Crescita economica non inflazionistica, non alimentata dal disavanzo, significa riforme strutturali. Ho illustrato ai miei due interlocutori il percorso delle riforme strutturali che intendo apportare all'Italia e in particolare la tempistica di queste riforme strutturali e il modo attraverso il quale, associando le parti politiche e le parti sociali, intendiamo muoverci, abbiamo già cominciato a muoverci. Oh, c'è un ascoltatore che mi ha tolto le parole di bocca, dice: sì, va bene, ma a noi quando lo presenta il piano? E in effetti... Allora, sappiamo che il governo Monti ha detto per noi fa fede, anche perché è appoggiato dal PD e dall'Italia dei Valori, ma soprattutto dal PDL, quindi per noi fa fede quanto presentato in Europa a fine ottobre dal governo Berlusconi, e quindi questo già lo sappiamo, però vorremmo conoscere i dettagli, la parte attuativa. È vero, ha ragione, a noi quando ce lo presenta, se mi rispondi Gerardo Pelosi, dopo il traffico, mi fai una cortesia, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, Gerardo Pelosi, quando ce lo presenta anche a noi il programma Monti? Questa domanda, a nome di tutti noi giornalisti italiani, l'ha rivolta il collega, bravissimo collega Alessandro Merli, che neo corrispondente da Francoforte, al presidente Monti, e Monti non ha risposto. Paramonti. Ma da quello che siamo riusciti a dire, soprattutto dopo l'incontro con le istituzioni, capi delle istituzioni europee, cioè Barroso e Van Rompuy, perché l'intenzione di Monti sia questa: presentare la manovra dopo l'Eurogruppo Ecofin, quindi 29 e 30 novembre, e prima del Consiglio europeo del 9 dicembre, ma con un dettaglio importante, non una semplice approvazione del Consiglio dei Ministri, ma già misure portate in Parlamento, con l'impegno del Parlamento di approvare entro Natale. Si parla dei 15 miliardi perché bisognerebbe far fronte a impegni per circa 30 miliardi su 2 anni, quindi 15 miliardi sulle cose che poi si sanno, rivalutazione delle rendite catastali, l'ICI, la manovra sull'IVA, la manovra sul contante e quant'altro. Volevo semplicemente ricordare una cosa, sì, perché Monti, che non abbiamo detto, Monti si è tolto anche di solini delle scarpe per quanto riguarda il rigore e ha detto: cara Francia, cara Germania, voi avete fatto fallire con la complicità dell'Italia, che nel 2003 aveva la presidenza di turno dell'Unione Europea, il patto di stabilità. È vero. Io, che era l'ultimo anno di commissario nel 2003, poi ha finito il suo compito a Bruxelles nel 2004, chiesi che la Commissione deferisse il Consiglio Ministri dell'Unione Europea alla Corte di Giustizia per questo. Allora, è un breve nota. Cosa capitò nel 2003? Chi ascoltava Focus Economia se lo ricorda. Francia e Germania per primi sforarono il tetto del limite del 3% nel rapporto deficit-PIL previsto da Maastricht, cioè l'accordo che fonda l'Unione Europea, che fonda l'euro, scusatemi. Furono i primi a romperlo. E questo non è bello, perché quando il primo della classe viene beccato in castagna dovrebbe essere il primo a pagare. Invece cosa capitò? Capitò che si fece una deroga per non umiliare la Francia e soprattutto per non umiliare la Germania. Si disse: no, vabbè, andiamo in deroga, non partirono le sanzioni, ma non tanto perché le sanzioni fossero dure, come il dato economico, ma perché avrebbero umiliato la Germania, paese fondatore. Ora, vedi che nessuno è perfetto completamente, e tutti quanti devono stare attenti a ergersi a maestrine o primi della classe, anche para Merkel. Andiamo avanti con Monti sull'unione fiscale. La posizione mia sugli eurobond, vorrei sottolineare quello che ha detto in particolare il cancelliere Merkel, cioè dobbiamo andare verso una unione fiscale se vogliamo dare stabilità radicale all'euro. Richiede regole, richiede meccanismi per l'applicazione sicura e credibile di quelle regole e in questo contesto, io penso, ma in questo contesto, e quindi c'è la questione qui della modifica del trattato per raggiungere questo contesto di unione fiscale, molti altri temi a mio giudizio si sdrammatizzano. In questo contesto gli stability bonds, come li ha chiamati la Commissione Europea, potrebbero dare un contributo significativo. Tutto è possibile, a mio giudizio, dentro una solida unione fiscale. Molte cose buone in sé possono diventare pericolose, libere di vagare nel cielo al di fuori di una solida unione fiscale. Allora, Gerardo Pelosi, grazie. Ci hai fatto anche capire che tra il 30, me lo ripeti, le date tra il 30 novembre e il 9 dicembre dovrebbe arrivare. Sì, l'Eurogruppo e l'Ecofin è 29 e 30. Il Consiglio europeo è il 9. Quindi tra quelle due date Monti. Tra quelle due date Monti dovrebbe presentare, sì, non al governo, ma a questo punto non come Consiglio dei Ministri, non solo come Consiglio dei Ministri, esatto, ma come testo di legge in Parlamento, con dentro tutto, da quello che abbiamo capito, no? O la va o la spacca, sì, per poi presentarsi in Europa, giusto? Sì. Grazie Gerardo, buona Strasburgo. Grazie a voi. Allora, siamo d'accordo, sono d'accordo con molti ascoltatori che dicono, insomma, però anche Monti adesso parli, ci faccia sapere, dategli, non voglio essere cerchiobottista, ma dategli anche un po' di tempo. Voglio dire, è vero che le misure sono di urgenza, è vero che sono 2 settimane, adesso cerchiamo di non essere, è vero che il tempo è emergenziale, però insomma, c'è chi ha fatto pochissimo in 3 anni e anche negli anni precedenti altri governi. Se adesso Monti si piglia una settimana in più, non è la fine del mondo. L'importante è che sia un pacchetto complessivo di riforme vere, strutturali, che non liscino il pelo alle categorie e alle lobby, ma che facciano pagare a tutti, anche alla Chiesa, sui beni che non di culto, ne parleremo domani, ma anche sugli alberghi, gli hotel esenti da ICI, anche la Chiesa. Anzi, secondo me la Chiesa dovrebbe fare proprio un bel gesto, dire, vista la situazione di difficoltà che conosciamo bene, grazie alla Caritas, grazie alle parrocchie, noi proponiamo di pagare l'ICI sugli alberghi, gli hotel. Elsa Fornero, neo ministra welfare, sulla riforma delle pensioni. Poi arriviamo alla borsa, non vi preoccupate, oggi la chiusura è da codice telefonico: 0,03% in rialzo in Milano, 0,01% in ribasso Parigi, 0,54% il calo di Francoforte. Elsa Fornero, che ha detto, la riforma è già stata fatta, va solo accelerata. In questa difficile situazione l'Italia può però contare su diversi elementi positivi. Il risparmio delle famiglie continua a essere comparativamente elevato. Una riforma pensionistica largamente già fatta, i cui tempi potranno essere accelerati, un patrimonio unico al mondo di conoscenze produttive di imprenditori e lavoratori, un'imprenditoria diffusa di piccole dimensioni che contribuisce in maniera decisiva a fare dell'Italia il secondo paese del continente per importanza nel settore manifatturiero. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, non torniamo sul caso dei due evasori di Venezia, non di Verona, come scrivono alcuni, ve ne ha parlato anche il nostro GR, abbiamo dedicato un siparietto all'inizio, perché veramente un euro un coniuge, 5 euro l'altro di dichiarazione di redditi all'anno, con 65 milioni di guadagno per un terreno, e vabbè, tra l'altro è vero quello che scrivono alcuni, che bisognerebbe anche reintrodurre il registro fornitori, che è levato in maniera improvvida seppur dal ministro Tremonti, dall'allora ministro Tremonti. E così come fu improvvido anche riportare subito come primo atto del governo di allora il limite sugli assegni, per essere assegni che poi vanno controllati, che Visco ha fatto scendere da 2.500 euro a 12.500 euro. Poi devo dire che lo stesso Tremonti ha fatto retromarcia su questo, perché aveva riabbassato la soglia della tracciabilità degli assegni da 12.500 a 5.000 e poi a 2.004, quindi sul livello di Visco, per essere proprio corretti ed esatti. Molti scrivono, ma come faceva la Guardia di Finanza a non accorgersi prima di due? Ho capito, ma intanto li ha beccati. Ripeto, mi sembra molto efficiente, lo dico con massimo applauso, la Guardia di Finanza in Veneto, nel nord-est. Leggiamo poco di poche operazioni al sud, ma non solo come dato di cronaca. Immagino che ci sia l'evasione anche lì, immagino che ci sia del nero anche lì. Però adesso parliamo di borsa. Borsa piattina piattina. Wall Street oggi chiusa per il Thanksgiving, per il giorno del ringraziamento. Parigi invariata, Milano invariata, Francoforte meno 0,5%, Londra meno 0,24%. In realtà le borse andavano bene, si sono molto raffreddate dopo la conferenza stampa che, come abbiamo spiegato in tutti i modi, ma adesso vi torneremo, ha deluso Sarkozy. Ma è stato nulla di fatto alla fine, se non qualche dichiarazione. Il successo maggiore, ma adesso vi arriveremo, forse è quello dell'Italia, di Mario Monti, da noi in maniera molto benevola soprannominato oggi Paramonti, perché è riuscito ad appoggiare Angela Merkel e quindi a deludere Sarkozy. In cambio spera di ottenere un po' più di comprensione su quella parte di deficit italiano che deriva non da una spesa eccessiva ma da una crisi internazionale. E poi è riuscito ad ottenere che sia Angela Merkel che Nicolas Sarkozy verranno a Roma a metà dicembre per proseguire gli incontri. Paolo Palonetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Al di là dell'indice Fiat, bene, soprattutto nel finale, più 4,30%, e anche Fiat Industrial guadagna il 3,60%, Exor l'1,15%. Sì, esattamente, in tutti questi casi secondo gli operatori si tratta molto di movimenti tecnici in una giornata che, come ricordavi tu, non aveva neanche le indicazioni provenienti da Wall Street chiusa per il ringraziamento. In questo caso Fiat quindi ha guadagnato appunto oltre il 4% dopo che nelle ultime 5 sedute il titolo aveva perso il 19,1%, un calo che era iniziato dopo la pubblicazione degli ultimi dati sulle immatricolazioni europee. Analogo andamento per Fiat Industrial, che già si era ripresa un po' nelle ultime giornate, è andata molto bene anche lei, ha guadagnato il 3,6%, ma è un discorso che oggi si può fare anche per alcuni altri titoli. Sì, tra questi segnalo soltanto subito Mediolanum, che è stato il secondo miglior titolo tra le blue chip milanesi, ha guadagnato il 3,8% e dall'inizio della settimana, quindi nelle precedenti 3 sedute, aveva perso il 15%, quindi anche in questo caso chi aveva venduto e chi ritiene che con questi nuovi prezzi i titoli possano essere attraenti ha preso posizione. Sì, sulle banche Unicredito più 2,81, ma stiamo viaggiando a 69 centesimi di euro per azione, è un livello vicino a quello del 2008 di Lehman Brothers. L'automatica più 2,37, Mediaset più 2,34, Finmeccanica più 2%, anche qui un po' di recupero dopo che il titolo ha perso il 30% in poche sedute. Diasori in più 1,90 come Saipem, l'1,70 guadagna Fondiaria Sai, l'1,5 Intesa San Paolo. L'1,36% invece è il rialzo di Tod's e di Pirelli e di Tenaris. L'1,15 quello di Exor ancora. Tra chi invece oggi è nato male, Azimut di nuovo, meno 3,44 e A2A vicina ai minimi storici, è meno 2,93%. A2A. Sì, A2A ha aggiornato i minimi storici, è scesa appunto, oggi ha chiuso a 0,7285 euro, ha perso il 2,93%, sul mercato continuano a ripetersi le raccomandazioni da parte delle banche d'affari che sono ultimamente quasi tutte concordi sul vendere il titolo, la società rimane sotto i riflettori per quanto riguarda i possibili sviluppi del dossier Edison, per cui si stanno mettendo a punto quelli che si pensa possono essere gli ultimi dettagli con i francesi dei DEF. Non c'è nessun motivo particolare dal punto di vista societario per la flessione di oggi, ma appunto il titolo tratta a livelli mai visti prima. Intesa San Paolo, volete sapere se il nuovo amministratore legato è il motivo? Sì, è arrivata la conferma, no Paolo, di quanto già scritto ampiamente dalle agenzie. Sì, il nuovo amministratore delegato dell'Intesa San Paolo sarà Enrico Tommaso Cucchiani, che è fino ex a Allianz. È numero uno di Allianz in Italia e fino a ieri, almeno, anzi fino ad oggi, sedeva anche nel consiglio di amministrazione di Unicredit. Il titolo ha guadagnato l'1,48%, oggi comunque sono andate bene tutte e due le big italiane, anche Unicredit ha fatto più 2,8%, in questo caso sono le notizie rassicuranti che arrivano su Dexia, si crede che possa essere raggiunto un accordo per il salvataggio del gruppo franco-belga a giorni, il titolo infatti ha guadagnato il 28%, il titolo Dexia, e quindi tutte le principali banche, soprattutto le big, appunto, ne hanno beneficiato, mentre a Milano sono andate male le Popolari e il Monte dei Paschi di Siena. Allora, alcuni dicono, ma perché non citate mai il titolo Generali? Spiego ancora una volta, citiamo le variazioni più significative, nel bene e nel male. Generali comunque meno 1,13% oggi in borsa. BPM di nuovo però in flessione, 2%, tra l'altro si sta allontanando dalla soglia dei 30 centesimi di euro per azione, che è il prezzo di emissione delle nuove azioni per l'aumento di capitale, no? Sì, esattamente. È a 26 centesimi. 26,27. Sì, questo potrebbe essere un problema per quanto riguarda l'ultima fase della ricapitalizzazione, cioè manca ancora l'asta dei diritti inoptati, ovviamente le banche del consorzio hanno 30 giorni di tempo per lanciarla, ovviamente se venisse lanciata quando il prezzo di borsa è inferiore a 0,30, cioè a 30 centesimi, sarebbe molto probabile che l'asta andasse deserta, perché nessuno comprerebbe diritti che per sottoscrivere azioni a un prezzo superiore a quello dei corsi di borsa, quindi è molto probabile che si cerchino di aspettare un recupero delle quotazioni oltre questa soglia di 30 centesimi, se mai avverrà nel giro di un mese. Un'ultima domanda, ci sono novità sulla Popolare Emilia Romagna? Ce lo chiedono molti ascoltatori, continua a calare questo titolo. Cioè, oddio, va molto sull'ottovolante, però anche oggi meno 2,5. Beh, qui sul popolare dell'Emilia Romagna c'è un discorso di lungo periodo, cioè è vero che da quando è entrata nel FUZIMIB è stata sicuramente tra le peggiori del comparto, molti segnalano però che prima di entrare nel FUZIMIB, quando già i titoli bancari erano nella bufera, proprio questa sua minore visibilità e minore presenza anche nei portafogli di grandi investitori istituzionali l'aveva un po' protetta dalle flessioni, quindi qui si spiega ancora in gran parte con un ribilanciamento dopo l'ingresso nel FUZIMIB. Miglior titolo Zucchi più 21%, Tesmec più 8,60, Astaldi più 6,5, Grandi Viaggi più 6,20, Safilo più 5,70, Danone più 5,60. Peggior titolo, poca roba, Cape Listed Investment meno 18, Cobra Automotive meno 13, TAS meno 12, Gas Plus meno 12, Sintesi meno 9,30, Sopaf meno 7,73%. Grazie a Paolo Paronetto. Adesso c'è il traffico, poi torniamo a cercare di dare un bilancio non tanto al vertice di oggi, che mi sembra ancora molto interlocutorio, ma a come si potrebbe uscire da questo attacco che riguarda sicuramente Spagna, Italia, Grecia, Portogallo. Oggi Portogallo ha avuto un declassamento dell'obbligazione a livello spazzatura, ma ha preso di mira la Francia e ieri, surprise surprise, anche la Germania. 349-238-6666 per i vostri sms. La mia opinione rispetto a ieri non è cambiata. Se noi facciamo il primo passo verso l'unione fiscale, quindi abbiamo un patto di stabilità più forte, di crescita più forte, allora è un passo in avanti, ma non è la prerogativa per cambiare la mia posizione, come ho già detto ieri. E naturalmente ognuno ha la propria struttura, il proprio bilancio, e comunque rimane il principio che il patto di stabilità e di crescita deve essere salvato e rispettato. E questo, questa lesione al trattato non può essere accettata dalla Germania, e la Germania farà tutto, perché tutto quello che eviterà che ciò possa accadere, ed ecco perché io ho questa posizione nei confronti dell'euro bond. Quindi non c'è nessun cambiamento rispetto a ieri. Siamo tre piccoli porcellini, siamo professor Alberto Lesina, che insegna ad Harvard, di cui è responsabile del Dipartimento Economico e anche editorialista su Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a lei. Le piacciono i tre porcellini? Sì, divertente. Italia, quella che ha la casa di paglia, lo sappiamo, poi c'è la Francia che ha la casa di legno e la Germania che ha la casa di mattoni. Il lupo, diciamo, è quello che stanno facendo, il ragionamento che sta facendo la finanza mondiale. Allora, Angela Merkel ha gelato ogni speranza di Sarkozy oggi, l'ha sentita anche lei, ha detto no, gli euro bond non li voglio, non ho cambiato posizione, le proposte per cambiare i trattati dell'area euro non hanno nulla a che fare con la Banca Centrale Europea, la Banca Centrale Europea deve restare indipendente. Sarkozy si è arrabbiato, dicono varie agenzie. Ha detto insomma siamo determinati a sostenere l'euro anche noi, però dobbiamo lavorare sulla riforma dei trattati, occorre trovare un compromesso sulla Banca Centrale Europea che comunque tenga conto delle linee rosse di ciascuno. Lei oggi sostiene che, assieme a Francesco Giavazzi, che in realtà proprio una Banca Centrale Europea più simile alle altre banche centrali potrebbe rappresentare un elemento per uscire da questo continuo attacco che prende di mira come il lupo della favola, prima uno, poi l'altro, per arrivare fino alla casa di mattoni. Professore. Ma sì, perché la situazione si è arrivata a un punto veramente critico, per cui c'è un attacco ai bond europei che sembra significare che i mercati sono molto preoccupati di una frattura completa dell'euro. A questo punto credo che la cosa più semplice, più veloce e più, diciamo, credibile da fare è che la Banca Centrale Europea si impegni a comprare titoli europei. Il problema è che le banche centrali che comprano titoli, tipo la Fed o la Banca Centrale Inglese, comprano titoli di uno Stato. Qui si comprerebbero titoli di una serie di paesi legati da una politica fiscale non coordinata, quindi bisogna evitare che il fatto che la Banca Centrale Europea compri titoli, che allora tutti i paesi si disinteressano dei propri bilanci e accumulano deficit, quindi ci vuole una, da un lato qualche sistema per assicurarsi che i paesi seguano politiche responsabili e dall'altro un intervento della Banca Centrale Europea. A questo punto non ci sono altre soluzioni di ingegneria fiscale per uscire da questa situazione di estremo pericolo per l'euro. Mi scusi, professor Lesina, se ho ben capito, lei dice la Banca Centrale Europea, così come la Federal Reserve in America, non è che garantisca sui titoli emessi dalla California piuttosto che dal Texas, esatto. Garantisce esatto. Il debito federale, non quello dei singoli stati. Esatto, ma l'Europa non è l'America, non abbiamo un debito federale. E quindi lei è a favore degli Eurobond, perché l'unico modo per... L'Eurobond ormai è tardi per gli Eurobond, gli Eurobond potrebbero sostituire il flusso di futuri deficit, quello che importa adesso è lo stock di debito accumulato da Italia, Spagna, Portogallo e compagnia. Il debito italiano che matura, o il debito spagnolo che matura, o il debito belga che matura nei prossimi mesi, in qualche modo deve essere finanziato dai mercati, quindi se i mercati non lo vogliono finanziare qualcuno deve intervenire, quindi credo che abbiamo superato il punto di non ritorno su questo. Quindi bisogna che la Banca Centrale Europea da un lato che la Banca Centrale Europea intervenga, dall'altro che si esca da una situazione in cui appunto che lei citava California eccetera, negli Stati Uniti c'è un vincolo di bilancio in pareggio per gli stati, per quasi tutti gli stati molto forte, quindi la California e New York eccetera non possono mettere titoli per finanziare il deficit. Per cui se ho ben capito lei dice adesso c'è un problema immediato che sono per esempio nel caso dell'Italia i 200 miliardi di obbligazioni di debito che va in scadenza cui dobbiamo trovare dei compratori. Se non c'è una garanzia su questi soldi della Banca Centrale Europea capiterà quello che è successo ieri alla Germania, l'asta potrebbe andare in optata per parte e saremo al collasso. Poi si può ragionare sugli Eurobond. Io credo che bisogna ragionare su una politica fiscale europea più coordinata, in qualche modo gli europei devono capire che se vogliono avere una unione monetaria devono in qualche modo avere anche una qualche forma di unione fiscale per cui nessuno può fare quello che vuole buttando nel calderone europeo i propri deficit incontrollati, che poi siano Eurobond o un ministro del tesoro dell'Europa o qualcosa, qualunque cosa sia, a questo punto non si tratta più di ingegnerie fiscali, di finanziarie, ma di un rendersi conto che se vogliamo che l'euro continui ci vuole uno qualche... Cioè siamo attaccati perché divisi, tra l'altro ieri... Esattamente, questo è veramente molto ben detto, siamo attaccati perché divisi e quindi bisogna in qualche modo unirsi e questo significa capire che... gli orazzi e curiazzi, così facciamo. Esatto, paesi come l'Italia, Grecia e Portogallo non possono permettersi di continuare a essere irresponsabili, paesi come la Germania e la Finlandia devono capire che se vogliono l'euro devono... in qualche modo partecipare a questa unione e quindi bisogna uscire da questo stato di divisione assoluta. Allora, no, anche perché la favola dei tre porcellini è anche questo, tre porcellini molto divisi, è vero che i primi due non ascoltano la mamma mentre il terzo sì, però poi alla fin fine il terzo porcellino li fa entrare in casa, non li tiene fuori dicendo avete sbagliato, sennò la favola non sarebbe una favola ma sarebbe una tragedia, una carneficina di porcellini, che è quello a cui stiamo assistendo. Devo dire che Angela Merkel ieri, quando ha detto la difesa dell'euro non ha risorse illimitate, ha fatto il più grande regalo che poteva fare a chi sta speculando o investendo contro l'euro. In una battuta, perché poi voglio fare sentire un passaggio di Mario Monti, ma lei ritiene che vi sia la possibilità che poi l'euro si sciolga? Cioè gli studi, le simulazioni che stanno facendo alcune banche internazionali sono simulazioni o è il piano B? Ma io credo che purtroppo siamo arrivati al punto in cui la possibilità che l'euro si sciolga è una possibilità che viene considerata magari non negli uffici di prima linea ma negli uffici di seconda linea di banche, organizzazioni internazionali eccetera, che l'euro si sciolga ormai se ne parla, quindi quando se ne parla la cosa viene considerata, quindi quando viene considerata i mercati ne tengono conto e ne scontano la probabilità. Io penso che sia la probabilità ancora relativamente bassa, ma è una probabilità ormai che non è zero come era 2 o 3 anni fa, e quindi il problema è quando questa probabilità appare, certo, causa delle ripercussioni molto, molto forti. Allora, forse il successo più grosso di oggi lo ha tenuto Mario Monti, visto che sul fronte concreto sono rimasti, Francia e Germania sono rimaste sulle loro posizioni, perché è riuscito a invitare e a farsi dire di sì la Merkel e Sarkozy a Roma per continuare questo vertice, quindi andare avanti con queste trattative, facendo riacquistare, lo dico con la massima crudezza, un ruolo di nuovo all'Italia, perché fino adesso abbiamo visto sempre Merkel e Sarkozy, George e Mildred incontrarsi e tra l'altro contribuendo non poco anche alla situazione in cui siamo finiti. Sentiamo questo passaggio di Mario Monti. Ringrazio molto il presidente Sarkozy, l'iniziativa sua e del cancelliere Merkel di invitarmi in questa occasione ad uno dei loro dialoghi è stata molto apprezzata da me personalmente, dal mio governo e sono sicuro dall'intero paese. L'Italia è tradizionalmente stato uno dei fattori motori dell'integrazione europea e intende più che mai esserlo in questa fase che si annuncia molto problematica per tutti dal punto di vista della tenuta dell'Eurozona, ma anche, come è nella storia europea, piena di promesse. L'Europa ha sempre saputo reagire positivamente alle crisi. E noi l'abbiamo battezzato, professore Alesina, Paramonti, perché oggi Monti ha appoggiato più la Germania che la Francia, perché dice sì alle regole, rispettiamo i patti, però poi tenete anche in considerazione il fatto che c'è una crisi in corso. Secondo lei questo è già di per sé stesso un successo o è solo diplomazia ma poca sostanza? No, beh, è uno straordinario successo. Fino a qualche settimana fa avevamo Sarkozy e Merkel che in qualche modo ridevano dell'Italia, e tutto a un tratto, qualche settimana dopo, abbiamo una conferenza a tre con l'Italia che è tornata ad essere un paese rispettato e credibile. È uno straordinario successo. E in queste situazioni, in queste dichiarazioni ufficiali, che non è che ci si possa aspettare che uno dica delle cose straordinariamente concrete, oltre a esprimere la speranza che l'euro rimanga. Credo che sia questa conferenza a tre con Merkel, così a Monti, è uno straordinario successo per il paese, per l'Italia, per il governo, che finalmente ci siamo liberati del governo precedente. Ecco, questo lo dice lei in cauda veneno, ma io dicevo straordinario successo perché obiettivamente eravamo stati marginalizzati, tutti ricordiamo, io l'ho molto criticata, quel sorrisino che non gli ha portato bene a Sarkozy, perché poi hanno attaccato la Francia, il sorrisino di Sarkozy in conferenza stampa con Angela Merkel. Grazie ad Alberto Alesina, da Sebastiano Barisoni l'augurio a voi in ascolto di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, parleremo anche dell'ICI sugli immobili della Chiesa non destinati ai fini di culto. A domani. Radio 24, la passione si sente.